la Lombardia doveva dare un messaggio forte, era quello di uscire con un unico testo condiviso che impegnasse tutta l'assemblea, e infatti così è stato. Quindi questo è mi permetta di riassumere, cioè quel giorno in consiglio regionale sullo stesso tema, vale a dire il tema della legalità e delle opposizioni alle mafie, si è raggiunti con 4 delibere. Lei ha preso la parola e ha detto: ma non ci dividiamo su un tema che non ha colore politico, giusto? Certo. Bene, ecco, quindi questo è molto importante, il suo ruolo di mediazione va sicuramente apprezzato. All'interno dell'oggetto della delibera, consigliere Quadrini, si parla della definizione dello status dell'amministratore pubblico, una cosa che così vuol dire tutto, non vuol dire niente. Ce lo vuole spiegare? Sì, cioè bisogna arrivare a un testo unico, diciamo così, siccome oggi sono più testi che definiscono lo status dell'amministratore, soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità, l'ineleggibilità, il conflitto di interesse. Quindi su questa questione bisogna essere chiari, bisogna stabilire con chiarezza chi può essere amministratore locale, amministratore pubblico, e chi per svariate ragioni non lo può essere. Quindi questa è una questione di fondo, perché stabilito quali sono i criteri, no? Si evitano tutta una serie di questioni, di lungaggini, di interpretazioni che spesso poi portano a soluzioni che sono solamente, certo, politiche. Anche perché poi, mi corregga se sbaglio però, Quadrini, perché ringraziando Dio la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Questo aiuterebbe anche la magistratura nel suo ruolo, perché spesso oggi alcuni reati sono al confine tra il fattibile, il verosimile, il possibile, l'impossibile. Parlo per esempio l'abuso d'ufficio. Sì, esatto. Ecco, è corretto quello che dico? No, ha ragione. Questo è sicuramente un testo chiaro e facilmente interpretabile, aiuterebbe anche la magistratura, questo è evidente.